Capitolo 94. I figli di Pandione. Quando Eretteo, re di Atene, fu ucciso da Posidone, i suoi figli Cecrope, Pandoro, Metione e Orneo litigarono per via della successione, e Suto fu costretto a lasciare l'Attica in gran fretta per aver dichiarato che Cecrope, il maggiore, doveva divenire re. Cecrope, minacciato di morte da Metione e Orneo, si rifugiò a Megara e poi in Eubea, dove Pandoro si unì a lui e assieme fondarono una colonia. Il trono di Atene toccò al figlio di Cecrope, Pandione, la cui madre era Metiadusa, figlia di Eupalamo. Ma egli non godé a lungo del potere, infatti, benché Metione fosse morto, i figli che egli aveva avuti da Alcippa o Ifinoe si dimostrarono altrettanto invidiosi. Codesti figli erano Dedalo, che secondo altri sarebbe invece nipote di Metione, Eupalamo, che altri dicono padre di Metione, e Sicione. Sicione viene detto anche figlio di Eretteo, Pelope o Maratone, poiché una grande confusione regna in queste genealogie. Quando i figli di Metione cacciarono Pandione da Atene, egli si rifugiò alla corte di Pila, Pilo o Pilone, un re lelego di Megara, di cui sposò la figlia Pilia. In seguito Pila uccise suo zio Biante e, lasciando a Pandione il governo di Megara, cercò scampo in Messenia, dove fondò la città di Pilo. Cacciato nuovamente di là da Neleo e dai Pelasgi di Iolco, andò in Elide e fondò una seconda Pilo. A Megara Pilia generò a Pandione 4 figli, Egeo, Pallade, Niso e Lico, benché Egeo, invidioso dei suoi fratelli, mettesse in giro la voce che egli era il figlio bastardo di un certo Sciro. Pandione non ritornò mai più ad Atene. Egli ha ora un santuario eroico a Megara, dove si mostra la sua tomba sul promontorio di Atena la Tuffatrice, come prova che quel territorio apparteneva un tempo ad Atene. Trasformatasi in uccello tuffatore, la dea nascose sotto le sue ali il padre di Pandione, Cecrope, e lo trasportò sano e salvo a Megara. Dopo la morte di Pandione, i suoi figli marciarono contro Atene, scacciarono i figli di Metione e divisero l'Attica in 4 parti, seguendo le istruzioni del loro padre. Egeo, che era il maggiore, ebbe la sovranità su Atene, mentre i suoi fratelli estrassero a sorte gli altri lotti del regno. A Niso toccò Megara e la regione circostante fino a ovest di Corinto. A Lico toccò l'Eubea e a Pallade l'Attica meridionale, dove egli generò una rozza stirpe di giganti. Scirone, figlio di Pilade, che aveva sposato una delle figlie di Pandione, contestò a Niso la sovranità di Megara, ed Eaco, chiamato a dirimere la disputa, assegnò il trono a Niso e ai suoi discendenti e il comando degli eserciti a Scirone. In quei tempi Megara era chiamata Nisa e Niso diede il suo nome anche al porto di Nisea, da lui fondato. Quando fu ucciso da Minosse, Niso venne seppellito in Atene, dove si vede la sua tomba dietro il liceo. I megaresi tuttavia non vogliono ammettere che la loro città fu conquistata dai cretesi e sostengono che Megareo sposò Ifinoe, figlia di Niso, e gli succedette. La vita di Egeo, come quella di Cecrope e di Pandione, era costantemente minacciata dalle congiure dei suoi parenti, in special modo di Lico, che si dice fosse stato cacciato dall'Eubea. Lico si rifugiò presso Sarpedone e diede il suo nome alla Licia, dopo essersi recato da Afareo ad Atene e aver iniziato l'intera famiglia reale ai misteri delle grandi dee Demetra e Persefone, nonché ai misteri di Attide, nell'antica capitale messenica di Andania. Codesta Attide, che diede il proprio nome all'Attica, era una delle 3 figlie di Cranao, il re autoctono di Atene che regnò ai tempi del diluvio di Deucalione. Il bosco di Querce ad Andania, dove Lico purificava gli iniziati, porta ancora il nome di Cranao. Gli fu concesso il dono della profezia, e il suo oracolo un giorno dichiarò che se i Messeni avessero saputo tenere segreta una certa cosa, avrebbero potuto recuperare le loro ricchezze, ma in caso contrario le avrebbero perdute per sempre. Lico si riferiva a un ragguaglio dei misteri della grande dea, inciso su un foglio di stagno, che i Messeni rinchiusero allora in un'urna di bronzo sepolta tra un tasso e un mirto sulla vetta del monte Itone. Epaminonda, il tebano, dissotterrò poi quest'urna quando ridonò ai Messeni il loro antico splendore. Il liceo di Atene è così chiamato in onore di Lico. Fin dalle origini fu sacro ad Apollo, che colà ricevette il soprannome di Liceo e cacciò i lupi da Atene con il profumo dei suoi sacrifici. Ogni qualvolta sorgevano contestazioni circa la sovranità di uno Stato e la legittimità di certi diritti ereditari, si ricorreva a genealogie mitiche come quelle ora citate. La suddivisione del potere a Megara tra il re sacro che compiva i necessari sacrifici e il suo successore che comandava l'esercito ebbe un parallelo a Sparta. Il nome di Egeo si ricollega al culto ateniese della capra e il nome di Lico si ricollega al culto del lupo. Ogni ateniese che uccidesse un lupo era costretto a seppellirlo con una pubblica sottoscrizione. L'uccello tuffatore o smergo era sacro ad Atena come protettrice delle navi e, poiché il promontorio di Atene sovrasta il mare, doveva trattarsi di uno dei tanti promontori dai quali le sacerdotesse lanciavano gli alati farmacoi nelle onde. Attide, Actestea, dea della costa scoscesa, pare fosse un appellativo della triplice dea Attica. Le sue sorelle si chiamavano Cranae, di pietra, e Cranecme, punta rocciosa. E poiché Procne e Filomela, quando furono trasformate in uccelli, vennero chiamate tutte e due Attide, è probabile che tale dea fosse onorata col solito rito del tuffo dal promontorio. Attide, come Atena, ha in Omero parecchie altre epifanie in forma di uccello. I testi dei misteri delle grandi dee, che riguardavano la resurrezione, furono sepolti tra un tasso e un mirto, perché questi alberi rappresentavano, rispettivamente, l'ultima vocale e l'ultima consonante dell'alfabeto arboreo ed erano sacri alla dea della morte.